La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Bisogna porre attenzione subito sul verbo che usa il Costituente. I diritti non sono attribuiti dalla Repubblica, ma sono riconosciuti e garantiti. Questo significa che i diritti preesistono allo Stato. Lo Stato quindi non li attribuisce, ma piuttosto li riconosce e li garantisce. Ma quali diritti? I diritti intesi nella maniera più ampia possibile. Infatti, sono i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Ecco quindi la grande ampiezza della scelta del Costituente, che prende i diritti in generale della persona umana, non solo quelli del cittadino, e li definisce inviolabili. Inviolabili cosa significa? Che il pubblico potere non può comprimerli se non in casi eccezionali e per esigenze accertate. Questa è la garanzia. Ma tuttavia l'articolo 2 non pone solo diritti, ha anche i doveri, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi partecipare alla comunità statale significa avere i diritti di tutta la persona umana, ma anche contribuire alla partecipazione politica, al dovere tributario, al dovere militare, al dovere sociale, quindi a tutte quelle cose che ci fanno essere appartenenti alla comunità dello Stato. Non solo diritti, ma anche doveri.